Pronto, Andrea? Ciao Matteo. Ciao, come stai? Bene, dai, non sei male, te? Io bene. Dimmi qual è subito la tua battaglia, Andrea. Ok, la mia battaglia è una battaglia personale perché ho avuto dei problemi, diciamo, psichiatrici o una cosa simile di depressione all'inizio di quest'anno, ma un po' in tutta la mia vita. Quanti anni hai? Io ho 37 anni adesso, okay. E sto organizzando appunto un progetto, una via d'uscita. È una cosa praticamente pari a quella che richiedevi, nel senso che si chiama Pazzo da Viaggiare, è un giro in bicicletta per l'Europa occidentale e il bacino mediterraneo. E quanti chilometri sono, scusami Andrea? Beh, come credo sia impossibile immaginare, è difficile fare un conto dei chilometri. Però grosso modo. Grosso modo, beh, sui 16.000 chilometri. E parti ad aprile? Parto ad aprile del 2011, perciò fra pochi mesi. E quindi ti stai allenando? Beh, diciamo che quello dell'allenamento è una cosa un po' che pecca, anche se quest'estate mi sono allenato parecchio, ma adesso sono perso in mezzo alle cose un po' più burocratiche. Ma aspetta, però fammi capire Andrea, tu stai partendo ad aprile per il giro del Mediterraneo e non ti stai allenando? Vabbè, non farmi preoccupare. No, non preoccuparti. Okay. Senti, in quanto tempo pensi di portarla a termine? Beh, io credo in un anno, una cosa simile, anche perché mia moglie, visto che sono appunto anche sposato, visto che ho una moglie, è il tempo che mi ha concesso, diciamo. Lo immagino. Senti Andrea, noi probabilmente ad aprile siamo ancora in onda, quindi facciamo che ci sentiamo quando parti, ok? Ma assolutamente sì. Okay. In bocca al lupo. Grazie, ciao, grazie. Ciao, ciao. Ciao.